quello che ho ritornando verso Maello. È inconcludente ogni viaggio per me riposante, solo tornare da te se dici I love you so, se dici come back to my love, se dici I need you so, se dici come back to my love. Io son partito, che ero senza di te, pioggia, cielo e quanta polvere, ma tu seduta e tu aspettavi me. Seducente il tuo occuparti di me, è devastante il tuo sorriso per me. Se dici I love you so, se dici